soddisfattissimi, sì, perché come si sa i verdi da sempre, quindi Europa Verde, sono favorevoli all'agricoltura col metodo biologico, quindi che non fa uso di sostanze chimiche, e quindi il glifosato in particolar modo è un diserbante sul quale sono stati svolti degli studi, perché appunto viene classificato dallo IARC, che è l'Istituto Europeo della Ricerca sul Tumore, tra sostanze appunto che hanno una componente che può essere appunto dannosa per la salute, in poche parole nella stessa categoria del DDT, e quindi la mia risoluzione impone quindi questo percorso di abbandono graduale del glifosato, a cominciare intanto dai settori, dalle aree non agricole, perché il disertante che viene usato anche nei centri urbani, per intenderci, è stato ritrovato da indagini che sono state fatte nelle acque sotterranee anche nella nostra regione, quindi è una sostanza persistente e molto diffusa. Sono ovviamente contenta di questa decisione, che questo voto, che non ha avuto appunto alcun voto contrario, si apre questa roadmap per arrivare al superamento progressivo. L'Emilia-Romagna non è la prima regione che ha messo, diciamo, al bando il glifosato, sono già arrivate prima di noi Marche e Toscana. Sì, le Marche hanno proibito l'uso del glifosato nelle zone che sono vicine alle sorgenti d'acqua potabile. La Toscana invece l'ha proibita a far data da metà maggio 2021 per l'agricoltura integrata, ossia quella che fa un uso di sostanze chimiche controllate. La regione Emilia-Romagna, quindi sulla base di questa risoluzione, vedrà la giunta impegnata a intanto a modificare una delibera per cui viene vietato l'uso già nelle aree non agricole. Poi deve avviare appunto una roadmap per il superamento graduale dell'uso di questo diserbante. Si chiede anche che i fondi della ricerca, che sono stati approvati con una delibera appunto qualche settimana fa sulla strategia di specializzazione regionale, si chiama, quindi destina risorse per la ricerca, ecco, che ce ne siano anche dedicate proprio a ricerca per metodi alternativi, quindi pratiche alternative all'uso del glifosato e anche sostanze alternative, perché appunto il tema degli infestanti in agricoltura c'è anche, lo vediamo anche nelle aree, diciamo, a parco, a giardino pubblico in città. L'altra cosa importante è che si chiede appunto che le risorse europee, in particolar modo quelle del piano di sviluppo rurale, tengano conto di sostenere quegli agricoltori che da subito rinunciano all'uso dei fitosanitari e all'uso del glifosato. Anche l'Europa sta decidendo, insomma, se deliberare, se legiferare in materia, giusto? Sì, l'autorizzazione all'uso del glifosato a livello di Unione Europea deve essere rinnovata o appunto non rinnovata a metà dicembre del 2022, quindi manca poco più di un anno da questa decisione. Nella delibera io cito uno studio dell'Istituto Ramazzini, che già nel 2016 fece uno studio appunto di quelli sperimentali tipici dei Ramazzini, usando delle cavie, dei ratti, e che aveva già dato delle risultanze preoccupanti per l'impatto che può avere sulla salute. L'Istituto Ramazzini stesso adesso sta coordinando uno studio a livello mondiale che mette appunto assieme, a sistema, tutte le risultanze delle varie indagini che sono state fatte, e questo appunto sarà sicuramente anche di ausilio agli organi competenti dell'Unione Europea, che dovranno decidere, ripeto, a metà dicembre se rinnovare o meno l'autorizzazione all'impiego del glifosato nei paesi dell'Unione Europea.